linguistica e culturale, che vi ricordo questo grande corso interfacoltà, oltre a insegnare appunto lingua e cultura cinese. Terzo mio cappello nuovo, recente, interessante, che io presiedo, sono anche il direttore dell'Istituto Confucio. L'Istituto Confucio è questo nuovo organismo che ha sede anch'esso presso l'Università di Milano, che si occupa di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura cinese e che sta organizzando proprio nella nostra università una serie di corsi ad hoc per gli studenti di UNIMI. Partirà adesso a breve un corso per gli studenti di scienze politiche, speriamo nel prossimo semestre di far partire un altro corso per gli studenti della facoltà di lettere, quindi la conoscenza della Cina, che parte della Cina contemporanea, che parte attraverso una conoscenza della cultura e della lingua, quindi attraverso questo veicolo privilegiato, nella nostra università è un esperimento che, oltre ad essere fatto in maniera organica appunto attraverso il quinquennio di mediazione e lingue, adesso parte anche con delle iniziative diciamo anche più mirate a studenti che fanno altri studi ma che della Cina vogliono avere informazioni più diciamo aggiornate, non così specialistiche ma comunque non generiche e soprattutto non sbagliate. Ecco, con queste tre questi tre cappelli che ogni tanto mi girano per la testa, ogni tanto creano un po' di confusione, io vi do il benvenuto, vi ringrazio ringrazio veramente per aver organizzato questa iniziativa, concludo ringraziando tutti voi e auguro buon lavoro per questo pomeriggio, al quale io purtroppo non potrò, con mio grande dispiacere, essere presente. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio in particolar modo il Laboratorio Lapsus per l'invito a parlare di Cina, a parlare di fondo sovrano, il CASC per avermi dato l'occasione di scrivere il libro, l'editore Barrao che è qua presente, e volevo complimentarmi anche con la professoressa Lavagnino perché mi è giunto giusto adesso la notizia del Hanban dell'Istituto Confucio qui in Milano, che è un importante avvenimento non solo per la città e per le istituzioni universitarie, ma anche per lo studio e l'approfondimento della cultura cinese, cosa che è sempre più necessaria per comprendere un paese come la Cina, che ormai dista da noi non più di 12 ore di aereo, ma comunque 5.000 anni di cultura di differenziazione dalla nostra. Perché parlare di un fondo sovrano? Perché parlare di finanza oggi? Sono giusto arrivato lunedì mattina da Shanghai, una conferenza all'Unione Industriali, ieri a Roma all'Istituto Affari Internazionali e soprattutto nella conferenza torinese ho avuto la percezione che i nostri industriali hanno iniziato a digerire il concetto di Cina come fabbrica del mondo, come fabbrica low cost per prodotti che vengono poi prodotti in Cina localmente e reirradiati nel resto dei mercati mondiali. Si inizia a intravedere la Cina come mercato interno, uno dei maggiori, se non il futuro maggior mercato interno. Ecco, questi sono concetti ormai desueti, sono concetti vecchi. La Cina non è più questo. La Cina ormai ha già fatto un passo in avanti, si è rievoluta, ha riorganizzato il suo sistema produttivo, economico ed in fase di riorganizzazione sociale ed è diventato uno dei più importanti players in ambito di acquisizioni estere. A questo punto entra in gioco il fondo sovrano cinese. Quello di cui vorrei parlare oggi è una minima parte di quello che tratto nel libro. Il libro parte dalla genesi dello sviluppo bancario cinese, finanziario, fino ai giorni nostri, ma vorrei concentrarmi essenzialmente su due concetti. Il primo, l'influenza diretta e indiretta che il fondo sovrano avrà sulle nostre aziende e sul nostro paese in termini di politica, di geopolitica. Il ruolo di soft power che la Cina inizierà a giocare in ambito G20 e soprattutto G2 con gli Stati Uniti. E il secondo punto è la presentazione di un nuovo paradigma, quello del socialismo di mercato, concetto che fino solo a 2-3 anni or sono veniva considerato tra una risata e l'altra come un ossimero, come parlare di socialismo di mercato nella stessa frase, nella stessa maniera. Che cosa vuol dire socialismo di mercato? La stessa Cina fino alla crisi del 2007 si pensava avesse un'economia orientata al libero mercato. Con la crisi dei mutui subprime, con la crisi del nostro sistema liberista, a questo punto la Cina si presenta e il fondo sovrano nel suo alfiere come possibilità di modello alternativo per i paesi limitrofi che vanno dal Vietnam, Cambogia, Laos, Corea è anche un modello alternativo per quei paesi in via di sviluppo. Teniamo a sottolineare che la Cina tutt'oggi si considera un paese in via di sviluppo e può essere il modello di sviluppo dei paesi africani. Recentemente, ma non solo, negli ultimi 10 anni, i media hanno sempre teso a parlare della Cina con superlativi. Superlativi positivi, superlativi in negativo, la Cina come maggior pericolo o la Cina come maggior opportunità. Chi di voi si sta focalizzando sulla fotografia non è Photoshop, è vera, è successo qualche mese fa nei pressi di Shanghai, il palazzo è caduto completamente e tutti hanno parlato di questi problemi di bolle speculative del real estate, del mercato immobiliare. Il problema tanto non è per chi ha comprato quella casa, ma per chi già vive nelle altre due, by the way. James Chenos, un economista tra i più famosi, è stato dei primi negli Stati Uniti a denunciare il caso Enron. Enron, società americana, magnata nell'energia, è fallita ed è stata una delle prime avvisaglie, uno dei primi scricchioli del terremoto che è seguito e ha colpito non solo il mercato finanziario americano, ma anche tutti gli altri mercati finanziari globalizzati. James Chenos l'anno scorso parlava: la Cina ormai è prossima alla fine e il tonfo che avrà l'economia cinese, lo scoppio della propria bolla speculativa, sarà superiore a più di 1000 volte quello che è avvenuto a Dubai. Non è stato così. La Cina ad oggi ha dichiarato un prodotto interno lordo dell'8,7% e una prospettiva di crescita dell'8% per l'anno a venire. Questa è la risposta di Shanghai. È un Photoshop questo comunque. I primi due grattacieli, quello centrale Jimao, è già stato costruito. Quello a sinistra, che assomiglia a un cavatappi, anch'esso è stato completato recentemente ed è uno dei più, il quinto se non erro, tra i grattacieli più alti del mondo, e il terzo, che diverrà il primo in Asia, è in fase di costruzione. A destra di quest'area è già pronto il sito dell'Expo Universale del 2010. Il 1 maggio ci sarà l'avvio dell'Expo. Questa è la risposta di Shanghai. La Cina prosegue verso il suo sentiero, verso il suo Dao. I media in particolar modo continuano sempre a sottolineare queste due opzioni, o estremamente positive o estremamente catastrofiche. La prima come l'Asia e la Cina in particolar modo come possibile salvatore delle nostre economie. Anche solo recentemente con la crisi della Grecia si era parlato di un intervento da parte della Cina, del fondo sovrano cinese, per salvare l'economia greca. La risposta da parte delle alte sfere politiche cinesi è stata: se non tocca l'Europa e se l'Europa sino ad oggi non si è mossa, perché mai dovrebbe interessarsi la Cina a recuperare la Grecia? Un'altra parte analizza il problema cinese in chiave catastrofica. La Cina, che ad oggi è creditrice di circa più del 40% del debito pubblico americano, potrebbe svendere in un solo colpo tutti i bonds americani e in questo caso ci sarebbe un crack finanziario americano con precedenti e con problematiche non indifferenti, con ricadute dirette su tutto il mondo europeo e globalizzato. La risposta cinese per il momento è semplice: in un periodo di crisi del sistema finanziario, di estrema fragilità di tutte le economie, in particolar modo quelle europee, la Cina può disporre di 2.400 miliardi di dollari in riserve valutarie estere, oltre alle riserve che ha già nella People's Bank of China. Riserve che ha accumulato negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, in particolar modo nell'ultimo decennio, grazie a una favorevole bilancia commerciale. Negli ultimi 60 anni di crescita, come accennavo precedentemente, si è sempre parlato fin troppo della Cina come paese con crescita del PIL a due cifre. Mi piace citare il fatto che verso la fine del 2008 l'Ufficio Generale di Statistica cinese aveva predetto e stimato una crescita del PIL dell'8%, crescita che poi si è dimostrata anche superiore, dell'8,7%. Tutte le banche mondiali, dall'IMF, Banca Mondiale, EDB e via dicendo, hanno gridato all'eresia. Non è possibile che la Cina possa crescere così tanto. Di sicuro hanno cambiato qualche cifra, giocano coi numeri. Il massimo che il paese potrà arrivare è un generoso 6% dello sviluppo del PIL. Dopo solo 3 mesi tutte le maggiori banche mondiali hanno rivisto la crescita al 7%. Verso la fine del 2008 sono arrivati a predire anche una crescita del 10%. Cosa ci dice questo? Ci dice che la Cina continua a muoversi con i propri ritmi e con una visione molto particolare che in passato avevamo anche noi, ovvero quello dello sviluppo a lungo termine. La Cina tutt'oggi è un modello economico, socialismo di mercato di cui si parlava, con piani quinquennali che di nome hanno solo più un retaggio dell'Unione Sovietica, ma praticamente servono a gestire questa enorme mole di soldi per creare infrastrutture e per far sì che il paese continui a muoversi su obiettivi a lungo termine. Ormai noi siamo abituati alla finanza creativa, quella degli hedge fund, quella dei derivati, quella dei futures, in cui il lungo termine vuol dire 5 giorni. No, la Cina ha ancora 5 anni. E si vede come dal 99 al 2009 il paese sia divenuto adesso la terza economia mondiale, al pari col Giappone, è questione di mesi e sorpasserà anche il Giappone. In questo preferirei contestualizzare, non solo sottolineare il fatto di quanto la Cina incrementi il GDP ogni anno, il PIL, ma di quanto continui a investire all'estero. Non è una novità che la Cina investe in Africa, lo fa dagli anni 70, eppure nel momento di crisi 2006-2007 ha continuato a farlo. Il fondo sovrano cinese in questi ultimi due anni, anni della sua creazione, ha iniziato a fare shopping, fra virgolette, in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, nonostante le cifre siano comunque elevate, è una parte minima di quello, penso che alcuni di voi stiano sorridendo perché hanno comprato l'Apple, sì, l'iPhone prodotto in Cina, chiudo l'inciso. Oltre lo shopping americano, la parte più importante del CIC è quella legata all'approvvigionamento energetico e all'approvvigionamento delle materie prime. Il fondo sovrano si muove per avere l'acquisizione di società, di miniere, di commodities e di energia che sia funzionale allo sviluppo della Repubblica Popolare di Cina negli anni a venire. Quindi è ben più importante non focalizzare sempre cosa farà in Europa o in Italia, cosa sta facendo gli Stati Uniti, ma più che altro cosa sta facendo in Australia, nelle repubbliche centroasiatiche e in Africa. Buona parte dei fondi passano dalla City di Londra o da Hong Kong e una gran parte di essi non si riesce a tracciarne, perché per esempio negli Stati Uniti, per qualsiasi società in cui un investitore investa con una percentuale azionaria al di sotto del 10%, la società alla fine dell'anno non è tenuta a dare il nome dell'investitore nei bilanci. Quindi queste cifre che abbiamo, oltre che essere approssimative, possono anche rivestire una minima parte degli investimenti che il CIC e che gli altri fondi sovrani hanno fatto. I più importanti di quest'anno, difatti, sono proprio nel Kazakistan e in Indonesia. In Kazakistan hanno bruciato sulla corsa gli americani e hanno acquisito più del 10% di Kazmuni Gas, società statale di gestione del gasdotto, società il cui interesse ovviamente era anche molto, molto forte da parte sovietica oltre che americana. La Cina è arrivata per prima. E Bumi Resorts. Perché è importante Bumi Resorts, al di là della cifra che è stata investita? Perché sono miniere estrattive di carbone in Indonesia. E la prima domanda quando si parla di carbone è: la Cina è tra i primi produttori al mondo di carbone, nonché consumatore. Perché ha bisogno di acquistare del carbone ad un prezzo fuori mercato, maggiore di quello di mercato, quando ce l'ha già? Questo torniamo nel discorso precedente, quello dell'ottica a lungo termine. Oggi la Cina non ha bisogno di carbone, ma non è detto che con la velocità energetica che la contraddistingue non ne abbia bisogno fra 2 o 3 anni. Questo è un esempio molto spicciolo da strada. 3 anni fa avevano concluso le nuove reti stradali di Shanghai, ho preso la macchina per recarmi fuori città, 400 km di distanza, e in Cina è una gita fuori porta, e mi sono trovato praticamente solo su un'autostrada a 4 corsie per senso di marcia. Ho fatto la stessa strada qualche settimana fa, prima di venire qua, la strada era colma di macchine. Qual è stata la lungimiranza di prevedere che nell'arco di qualche anno conveniva investire subito in un'infrastruttura grossa per far sì poi che non si creassero dei problemi in futuro? Lo stesso con molta probabilità si ha nel caso delle miniere di carbone indonesiane. Adesso sorge spontanea domanda: qual è l'obiettivo in Italia del CIC? Anzitutto bisognerebbe vedere, non tanto come hanno scritto i giornali quest'ultimo periodo sul fatto di come sia importante l'Italia o meno per il CIC, se sia funzionale o meno, ma sul fatto che vi sia qualcosa di reale interesse da acquistare da parte cinese. Probabilmente si può parlare di Eni, di Enel e soprattutto di assicurazioni generali. Su quest'ultima non si è calcato molto il nome, ma è ben probabile invece che l'interesse vi sia, per un semplice fatto che il mercato assicurativo in Cina è in piena espansione, è una novità, vi sono assicurazioni sulla vita, sulle macchine solo da qualche anno, e un tipo di business legato a quello delle assicurazioni non si inventa dal giorno alla notte, ci vogliono delle forti esperienze, esperienze che le generali hanno già dimostrato ampiamente, non solo in ambito europeo ma anche in ambito cinese da più di un decennio. Faccio un passo indietro. Cosa sono i fondi sovrani? Ecco, anzitutto il fondo sovrano potete immaginare come se fosse un fondo di private equity, un hedge fund, un fondo il cui unico azionista, il cui unico proprietario è lo Stato che lo ha creato. Però a differenza di altri fondi statali gestiti dalla banca centrale, il fondo sovrano si muove su un terreno esclusivo, legato alla gestione dei fondi in cui solo poche persone all'interno del fondo e dello stesso governo, in questo caso dell'RPC, conoscono gli obiettivi finali. Questo perché la segretezza è una delle condizioni sine qua non dei fondi. Adesso non stiamo a parlare di trasparenza o segretezza in ambito cinese, perché i fondi sovrani esistono da più di 50 anni e noi siamo riusciti a venirne a conoscenza non più di un decennio or sono, proprio per il fatto che erano riusciti a mantenere questi loro movimenti all'interno delle compagini azionarie e societarie internazionali segreti, non trasparenti. Quindi proprio una delle condizioni sine qua non è la totale mancanza di trasparenza. Prego. Velocissimo, i fondi sovrani sono partiti nell'Unione Europea o sono vietati dall'Unione Europea? Allora, non vi è ancora una legislazione atta a gestire e contenere i fondi sovrani, ma vediamo dalla definizione del fondo sovrano. Prima di tutto, quali sono i paesi che possono permettersi un fondo sovrano? Vi sono due tipologie di fondi sovrani, a cui mi ha bruciato di qualche momento la risposta. Sono i fondi sovrani di quei paesi che hanno ingenti riserve in valuta estera. Quindi i primi che hanno avuto queste grosse riserve sono stati i paesi produttori di petrolio, Abu Dhabi e via dicendo. La stessa Norvegia, che oggi si chiama Government Pension Fund of Norway, era un fondo nato dalla gestione del petrolio ricavato e estratto in Norvegia. A questo punto questi paesi si sono trovati ad avere ingenti quantità di denaro estero ed li hanno utilizzati per sopperire alle oscillazioni del prezzo del petrolio durante i mesi e durante gli anni, per schermare la propria economia da queste oscillazioni esterne. Solo nell'ultimo decennio vi è stato una nuova tipologia di fondi sovrani, che sono quelli legati ai paesi non produttori di petrolio, ma a quei paesi che hanno una forte bilancia commerciale in positivo, come la Cina, Singapore e via dicendo. Se notate nell'elenco di questi fondi sovrani dei maggiori, quello cinese, China Investment Corporation, è l'unico che ha tre cifre. Perché? Perché nel momento in cui è andato in stampa il libro, che sono pochi mesi, il valore era 200 miliardi di dollari. Poco dopo che il libro è andato in stampa è arrivato a 300 e il PDF di 3 giorni fa è arrivato a 500, non ancora confermato, quindi l'ho già inserito anche se non è in eretto. Questo vuol dire la velocità con cui la Cina continua a muoverci. Una volta che siamo riusciti a definire, a inglobare il pianeta Cina in una definizione precisa, la Cina è già cambiata, la Cina è già qualcos'altro. I nuovi fondi sovrani, quelli coreani in particolar modo, di Singapore, prima ancora di quello cinese, sono venuti alla ribalta solo recentemente, nonostante esistessero già da più di 18 anni. Del fondo Tamasek Ojike di Singapore ne abbiamo saputo nel 2007, operava già sui mercati da 18-20 anni. Perché? Crisi finanziaria americana, crisi dei mutui subprime, banche di investimento si sono trovate completamente scoperte. Citigroup, Merrill Lynch hanno chiesto aiuto e grossi finanziamenti sono proprio arrivati dalle tigri asiatiche. Di nuovo si è parlato di stupore. Perché questo stupore? Com'è possibile che i paesi come la Corea o Singapore, che erano stati spezzati nel 1997 dal crollo delle loro valute, potessero avere degli eccessi di riserva? La crisi del 97 è servita per quei paesi, per i loro governanti, ma anche per la popolazione locale, a prendere in considerazione il fatto del problema di avere una valuta legata al dollaro. Quando il dollaro entra velocemente, esce velocemente dai propri paesi, vi è una fortissima crisi inflattiva. A questo punto hanno iniziato a accumulare riserve in valuta estera. Queste riserve sono utilizzate tutt'oggi per investire in paesi in crisi, come gli Stati Uniti, come l'Europa, Africa e via dicendo. Su questo sorvolerei. La Cina non ha un solo fondo sovrano. Legalmente è il CIC, nato nel 2007. Ma al CSI si affiancano altri tre enti, altri tre organismi che operano sui mercati esteri da più anni, prima ancora della creazione del fondo sovrano cinese. Il più importante è il SAFE, che è l'organismo preposto dalla banca centrale, la People's Bank of China, a gestire tutta la valuta estera. Su questo sottolineo il fatto che ad oggi il renminbi, moneta del popolo, o yuan che dir si voglia, è una valuta non convertibile. Quindi è la Bank of China che decide l'oscillazione, adesso è un'oscillazione minima legata al dollaro, all'euro e ad altre valute, e negli ultimi 5 anni ha promosso degli swap finanziari prestando in termini agevolati a molti paesi la propria valuta, non solo a paesi del bacino dell'estremo oriente come Corea, Vietnam e Cambogia, ma anche recentemente al Kazakistan, all'Argentina, al Brasile e alla Federazione Russa. Questi paesi si ritrovano in mano ingenti quantitativi di una moneta che non può essere utilizzata al di fuori dei confini della Repubblica Popolare. Cosa vuol dire? Che possono comprare beni o servizi cinesi con quei soldi. Dopo il SAFE, vi è Ping An, che è una società assicurativa da poco divenuta anche banca, che ha intenzione e probabilmente ha già attualizzato degli investimenti esteri. Parlo sempre al condizionale, perché probabilmente? Per il semplice fatto che utilizzano strutture offshore e società create in gran parte della maggioranza in Inghilterra, nella City di Londra, per fare acquisizioni minime e quindi difficilmente rintracciabili. Ultimo, il fondo pensionistico cinese. Normalmente un fondo pensionistico, anche come quello italiano, quelli americani in particolar modo, via dicendo, non possono investire sui mercati esteri. Gli investimenti esteri hanno un alto ritorno, ma anche un altissimo rischio. Quindi perché la Cina arrischia le proprie riserve delle fondi delle pensioni per investire all'estero per avere un ritorno più elevato? Perché la Cina, nonostante sia un paese in via di sviluppo, che io sinceramente preferisco definire paese in via di risviluppo, ma tutti gli economisti lo considerano ad oggi un paese in via di sviluppo, ha un'antinomia al proprio interno, ha un invecchiamento precoce della popolazione. Cosa vuol dire questo? I paesi già OECD con economie sviluppate come il nostro hanno una popolazione che tende a invecchiare e quindi dà un peso sul welfare non indifferente. I paesi in via di sviluppo, come quelli africani per esempio, godono di una popolazione estremamente giovane. La Cina, pur essendo in via di sviluppo, ha un invecchiamento precoce della popolazione. Fra nemmeno 15 anni il peso del welfare cinese diventerà opprimente per la stessa crescita economica. Quindi anche l'NSSF ha necessità di gestire in maniera più ottimale i propri fondi. Alla Cina non basta più comprare il debito americano, continua a farlo, continua a sostenerlo, ma per un problema di bilancia commerciale, non di necessità vera e propria di investimento. La Cina ha fatto e continuerà in maniera simbiotica a sovvenzionare il debito pubblico americano, di modo che coi soldi prestati agli Stati Uniti, gli Stati Uniti possono continuare a comprare merce cinese, fin tanto che il mercato interno cinese non sia completamente sviluppato e non possa assorbire quelle eccedenze produttive che ad oggi caratterizzano le imprese cinesi. Su quello, come sottolineavo all'inizio, prendere in considerazione il ruolo del fondo sovrano in chiave non solo prettamente economica. Giusto ieri parlavo col vice direttore della banca Akros in Roma durante l'incontro e lui mi chiedeva: com'è possibile che il primo investimento del CSI fatto negli Stati Uniti presso Blackstone sia risultato estremamente fallimentare? Hanno perso migliaia di miliardi nell'arco di pochi mesi. E lui mi ha chiesto: non ti chiedo perché hanno scelto quell'obiettivo di investimento, ti chiedo come sia possibile che il loro direttore generale, il presidente, sia ancora al suo posto dopo quello. Com'è possibile? Fossi stato io a farlo, sarei stato licenziato in tronco il giorno dopo. Gli ho detto: gli obiettivi cinesi non sono obiettivi esclusivamente di carattere economico. È un obiettivo a lungo termine ed è un obiettivo geopolitico legato al soft power cinese. Ecco, su questo andrei un po' veloce sulla nascita del CSI, perché di oggi, se siete d'accordo, preferirei avere maggiormente un dialogo con voi che non parlare basta su quello che c'è scritto sul libro. Il CIC esce dagli schemi dei fondi sovrani. Vi sono varie definizioni per incamerare i fondi sovrani in uno schema. Il CIC è subito differisce dagli altri fondi per un semplice motivo: il fondo sovrano ha la prerogativa di investimento all'esterno del proprio paese che l'ha creato. Il CIC ha investito all'interno della Cina. I maggiori revenue che ha avuto quest'anno derivano proprio dagli investimenti fatti sul terreno cinese e già da solo sul 100% dell'azionariato delle banche cinesi, il 57% delle banche cinesi ha il CIC al proprio interno. Cosa vuol dire questo? Che se il CIC investe su una società estera e la società ha un competitor, sempre questo estero, che ha intenzione di sfruttare il mercato cinese, a questo punto il competitors approccia al mercato cinese e magari può richiedere l'intervento di una banca cinese. Ma se questa banca ha già il CIC al proprio interno, risulterà ben difficile riuscire ad avere un prestito, un'agevolazione o anche un supporto. Lo Jiwei, due persone chiave all'interno del fondo sovrano cinese, Lo Jiwei e Gao Xixin. Chi sono e perché sono chiave? La struttura stessa del fondo sovrano, una struttura verticistica, creata e voluta da Lo Jiwei, vice ministro delle finanze, con una buona esperienza non solo finanziaria ma anche tecnica di quello che vuol dire gestire un'intera provincia, come ha fatto precedentemente prima di avere la carica al ministero, e un appoggio non indifferente del Consiglio di Stato, il maggior organo all'interno della Repubblica Popolare di Cina. Lo Jiwei crea il Fondo Sovrano Cinese e non a caso sceglie come presidente esecutivo Gao Xixin. Gao Xixin recentemente è stato sia a Milano che a Roma, giusto questo febbraio, su invito del ministro Tremonti, che a sua volta era stato invitato a Pechino a fare un discorso, una lezione magistralis, presso la scuola del Partito Comunista. Gao Xixin perché è importante e funzionale nel capire come si sviluppa le politiche di investimento del CIC all'estero? Perché è stato il primo cittadino sino-popolare, ancora con passaporto cinese, a ottenere il bar, cioè a divenire avvocato negli Stati Uniti. E non a caso, dopo essere diventato avvocato, ha scelto di lavorare a Wall Street. Quindi ha, oltre che un'ottima padronanza della lingua inglese, una conoscenza profonda e interna di quella che sono i meccanismi dell'economia, del libero mercato. A differenza nostra, che non abbiamo ancora molto chiaro ancora cosa voglia dire socialismo di mercato. Irrazionale esuberanza o invece paure giustificate? Il parlare di fondi sovrani e di pericoli del fondo sovrano. Due cifre, nel 2007, anno in cui ha iniziato, sono stati i primi prodromi della crisi del mercato finanziario. All'epoca gli hedge fund, quelli che sono stati considerati il colpevole primario della crisi del nostro mercato, assommavano in tutto a 1.350 miliardi di dollari. Nello stesso periodo i fondi sovrani erano più del doppio. Quindi in questo caso un'azione di un fondo sovrano può avere dei riflessi indiretti, non indifferenti, anche per la piccola e media impresa italiana. Cosa vuol dire questo? Quando un fondo sovrano acquista materie prime, commodities, energia, a prezzi anche al di fuori del mercato, a questo punto l'innalzamento del costo giornaliero, dell'approvvigionamento per esempio dell'acciaio, diventa sempre più pesante anche per le nostre aziende. Nell'altro caso può essere uno strumento che serve a indebolire, affievolire o inglobare addirittura la concorrenza straniera sui mercati esteri ed interni. Quindi ad oggi, a mio modesto parere, è importante non tanto parlare di chiudere o meno le porte ai fondi sovrani. Prima di tutto, in un'economia globale e interconnessa come quella di oggi, non risulta praticamente possibile. È ben più interessante iniziare a parlare di regole sui fondi sovrani, ma ancor prima di regole sulla gestione dell'economia propria di mercato, perché tutti i problemi che abbiamo avuto in questo periodo, negli ultimi due anni, legati ai derivati, allo short term, short selling e via dicendo, sono dei problemi nostri, non sono dei problemi creati dai fondi sovrani in assoluto. Ecco, non so chi di voi si ricorda dell'azione giapponese negli anni '80, quando l'economia giapponese era al massimo dell'espansione e quando non ultima la Sony Corporation ha iniziato ad acquisire le maggiori major di Hollywood. All'epoca gli Stati Uniti in primis e l'Europa a seguito gridava il pericolo giallo. Il Giappone ha perso la seconda guerra mondiale e sta riacquistando il territorio perso sul punto di vista economico. I samurai stanno conquistando Hollywood. Non ultimo la Mitsubishi ha acquistato Rockefeller Center negli anni '80. Ad oggi l'economia giapponese è in crisi. Più di 10 anni in clima totalmente deflattivo. Al pericolo giapponese si sta iniziando a sostituire quello cinese. Non sarebbe meglio iniziare a pensare cosa può essere pratico e funzionale al nostro sviluppo in una cooperazione con la Cina o quantomeno nel conoscere quello che sarà l'operato cinese anziché demonizzare l'inserimento dei fondi sovrani all'interno dell'Europa. Di questo particolare vi è stato proprio negli Stati Uniti, giusto l'anno scorso, la volontà del fondo sovrano cinese di acquisire maggior peso all'interno di una banca americana, banca di investimento Merrill Lynch. All'ultimo momento la Cina è stata lenta e il Giappone, tramite Mitsubishi UFJ Bank, è riuscito a soffiare al CIC questo pacchetto azionario. Gli americani sono stati contenti. Meglio il Giappone che non la Cina, senza dimenticare quanto dicevano 20 anni prima, che il maggior pericolo era proprio l'azione economica giapponese al proprio interno. Quindi al pericolo giallo giapponese si è sostituito quello cinese nell'immaginario comune. Adesso abbiamo parlato di tutte le parti positive del cinesi al di fuori dei confini del proprio paese. Non bisogna dimenticare una cosa fondamentale: il paese, Repubblica Popolare di Cina, ha ancora dei fortissimi squilibri, dalla redistribuzione del reddito, non so per chi di voi è al corrente del coefficiente Gini, che dimostra quanto vi sia la differenziazione, in questo caso in Cina, tra le campagne e la città. In più la Cina ha tre grossissimi problemi che deve ancora risolvere per avere uno sviluppo sostenibile, o meglio in armonia, come piace alla nomenclatura cinese: lo sviluppo ecosostenibile nel rimodernamento delle proprie aziende in chiave green, in chiave environmental friendly; una sanità accessibile, perché nel momento in cui le unità di lavoro sono venute meno, nel momento in cui la ciotola di riso di ferro non esiste più, i costi per una buona sanità in Cina sono divenuti quasi pari a quelli degli Stati Uniti. In una città cosmopolita come Shanghai, se volete operarvi l'appendicite, sono $30,000. Se non volete spendere quei soldi, andate da un dottore con meno possibilità in termini di macchinari e in termini anche di expertise, oppure non vi curate proprio. Non ultima, la riforma del welfare, di cui accennavamo prima, sul fatto che ancora tutta la struttura ha bisogno nei prossimi 5 anni di un riammodernamento che sia al passo coi tempi. Queste tre sfide sono già ben conosciute da parte del governo cinese, sono state già inserite nello scorso piano quinquennale e proprio in questi giorni hanno finito anche di discuterne su quello che saranno per il prossimo piano quinquennale di sviluppo. A questo punto rimane sospesa una domanda: la Cina sta transitando verso un modello liberista simile al nostro o ancor più verso quello americano, o nei prossimi anni potrà proporre un modello alternativo, un modello di socialismo di mercato? La risposta nel libro. Grazie. Dunque, sono Alessandra Spalletta e sinologa, coordino il portale di AgiChina24.it. Dunque, anzitutto vorrei fare complimenti dovuti, insomma, per Alessandro Arduino per questo libro che ho trovato davvero sorprendente e faticoso al tempo stesso, perché pensavo di trovarvi appunto dei contenuti esclusivamente di carattere finanziario e invece ho trovato un'analisi molto lucida che consente a un lettore anche non informato di comprendere quali sono gli equilibri finanziari e geopolitici che la Cina sta pesantemente influenzando. E sono molto interessanti le conclusioni, proprio perché sono interlocutorie e nonostante appunto l'autore riesca comunque a dare delle chiavi di lettura e di interpretazione per poter poi capire l'evoluzione del fondo sovrano nel futuro. E, peraltro ieri abbiamo aggiornato il portale con le ultime notizie relative ai profitti del fondo sovrano cinese, che diversamente dalle preoccupazioni, insomma, sono stati assolutamente positivi, hanno superato i 10 miliardi di dollari, poi magari correggimi se sbaglio. E, quindi diciamo, i temi su cui vorrei concentrarmi per una breve integrazione a questa presentazione, a questa slide presentation, sono di carattere economico, cioè inquadrare il fondo sovrano all'interno appunto di un contesto economico cinese, per capire, tu prima parlavi appunto di paese in via di risviluppo, ecco, su quello vorrei concentrarmi un attimo per capire meglio cosa è avvenuto, cosa avveniva prima della crisi in Cina e cosa è avvenuto invece dopo la crisi finanziaria in Cina, per quale motivo il fondo sovrano cinese ha una grandissima importanza sia per quanto riguarda gli assetti monetari internazionali, ma anche per stabilizzare l'economia interna e stabilizzare quindi tutta una serie di fattori che mettono a dura prova in questo momento la stabilità anche sociale della Cina. Anzitutto il famoso Baobab, l'8%, la crescita del PIL dell'8%, che come dicevi appunto poc'anzi era considerato con l'avvento della crisi l'obiettivo assolutamente, era una sorta di mantra, veniva riuscito come un mantra. Io ricordo che nell'ottobre del 2008, quindi eravamo già in un mondo post 15 settembre dopo il fallimento della Lehman Brothers, ero a un consiglio di amministrazione di un fondo di private equity e il governatore di una banca statale cinese ci disse: ma noi avevamo previsto la crisi, sapevamo che sarebbe arrivato. Ovviamente noi la domanda immediata è stata: perché non ci avete avvertito? E quindi la sua risposta è stata ovviamente abbastanza ambigua, però quello che, su cui abbiamo riflettuto è appunto come la Cina abbia fino all'anno scorso, fino al 2008, ottenuto un basso profilo, che era un po' anche il suggerimento di Deng Xiaoping. In questi 30 anni la Cina ha avuto una crescita esponenziale, però ha sempre mantenuto un profilo basso, anzi ha sempre preferito accettare lezioni dall'Occidente piuttosto che iniziare a darne. Oggi la Cina non può più permettersi, ovviamente, non è più uno di mantenere un profilo basso, non è più un'opzione possibile, perché la Cina, come si diceva nell'introduzione, oggi pesa moltissimo sullo scenario internazionale, è diventato un player di fondamentale importanza, e quindi ogni decisione che riguardi appunto la stabilizzazione anche dei mercati finanziari non può prescindere dalla collaborazione con la Cina. E quindi i cinesi stessi si chiedono: il modello liberista occidentale è stato messo duramente in discussione, è stato per la Cina un profondissimo shock, ovviamente, l'avvento della crisi finanziaria, nonostante il governatore in questione l'avesse intuito da tempo. E i cinesi hanno subito reagito, ma tutti gli analisti appunto, gli analisti anche occidentali, concordi nel ritenere che la crescita del PIL non poteva essere inferiore al 6% nel 2009, perché quella crescita era il minimo indispensabile per poter garantire un livello occupazionale, e la Cina ce l'ha fatta, ci è riuscita. Come ci è riuscita? Questa è una domanda che dobbiamo assolutamente porci, perché la Cina è arrivata alla crisi finanziaria già con un dibattito interno molto acceso sulla necessità di riformare strutturalmente il modello di sviluppo. Il modello di sviluppo cinese si considera, inizia ad essere considerato dai paesi asiatici come una possibile alternativa, come si diceva prima, un modello di sviluppo. In realtà i cinesi non sono tanto concordi, c'è un ampio dibattito su quale sia il modello di sviluppo, se esista veramente un modello di sviluppo. Da un lato la retorica politica è talmente ingessata in Cina che non consente una vera evoluzione del sistema culturale, e questo è un aspetto che forse magari possiamo approfondire in seguito, anche per quanto riguarda, se ci sarà tempo di approfondire, la qualità dell'industria, la qualità dei professionisti e dei risorsi umani. E dall'altro non mi sono persa un attimo. Dicevo, non c'è una visione univoca, ecco. In Cina c'è un livello di dibattito molto profondo, e dall'esterno spesso appare un blocco monolitico, in realtà all'interno anche del Partito Comunista Cinese si misurano moltissime opinioni, e tanto che il 18, il Yang Yao, che è il direttore del China Center for Economic Research dell'Università di Pechino, di recente ha apparso un suo contributo sul Foreign Affairs, che si intitola The End of Beijing Consensus. E la fine quindi del modello di sviluppo, il modello di sviluppo cinese viene stato definito post-Washington Consensus, proprio perché gli americani pensavano che con l'esposizione della Cina ai modelli occidentali la Cina sarebbe diventata un clone liberale, in realtà non è stato così, anzi, e questo spaventa moltissimo anche nel momento in cui la Cina riesce a mettere in campo ad esempio il fondo sovrano cinese. E questo l'articolo che è apparso su Foreign Affairs di un altissimo intellettuale di Stato ovviamente ha preoccupato, perché nel momento in cui la Cina invece ha bisogno di cambiare strutturalmente il proprio modello di sviluppo, e soprattutto andiamo verso il 2012, quando ci sarà un importantissimo ricambio generazionale all'interno della leadership cinese, il fatto che un intellettuale ritenga che il modello di sviluppo cinese abbia fallito, sia in procinto di fallire, ovviamente non è qualcosa che dovrebbe allarmare. In realtà la Cina a quanto pare ce l'ha fatta, e bisogna chiedersi come. La Cina ha tantissimi soldi, e questo è un fatto inequivocabile, e grazie a questa immensa disponibilità di liquidità è riuscita a mettere in campo un pacchetto di stimoli finanziario pari a 4.000 miliardi di dollari, e al contempo ha alluvionato il mercato cinese di crediti bancari. Quindi le banche hanno aperto i rubinetti del credito, e questi due elementi hanno consentito, semplificando, ecco, la crescita economica, quindi il raggiungimento di questo 8%. Il problema è che le cose non sono poi così semplici, perché in Cina ci sono tantissimi problemi, e molti di questi problemi che erano precedenti la crisi si sono ulteriormente aggravati. Comunque il pacchetto di stimoli teoricamente doveva aiutare, doveva potenziare quelli che sono i fattori deboli del sistema economico e sociale, quindi il welfare, quindi l'ambiente, quindi la riqualificazione delle industrie. In realtà i problemi che oggi la Cina si trova a gestire è, da un lato, una spirale inflattiva, il rischio di bolle speculative nel settore immobiliare e azionario, che poi sono i settori che hanno in qualche modo goduto di più, ecco, di questa alluvione di crediti. E quindi oggi la Cina si trova ad affrontare, da un lato, un rischio inflazione, inflazione e deflazione, quindi c'è questo equilibrio, dall'altro il surriscaldamento dell'economia. E ovviamente è una sfida molto, molto difficile, anche perché la Cina deve riuscire contestualmente a risolvere appunto tutti questi problemi strutturali. La domanda è: la Cina ce la farà, e qual è il ruolo del fondo sovrano all'interno dell'economia cinese? Il fondo sovrano ha una grandissima responsabilità etica e politica, questo quello che appare e che si percepisce leggendo anche i giornali cinesi. Quando nel primo anno del fondo sovrano cinese, nel 2007, i due investimenti di cui si parla molto, nel fondo Blackstone e nella banca Stanley, furono assolutamente fallimentari. Questi due fondi di private equity fallirono poco dopo l'investimento da parte del fondo sovrano, con una perdita consistente, e questo suscitò una grandissima preoccupazione e nervosismo ovviamente in Cina, perché in questo momento la partita si gioca su la transizione da un modello economico basato sull'export e sugli investimenti esteri, che è stato nei 30 anni sostanzialmente il modello cinese, a un modello invece basato sui consumi interni. Chi finanzia questo passaggio? Il pacchetto di stimoli e i crediti hanno creato dei problemi, quelli che abbiamo poc'anzi elencato, tanto che c'è stato un restringimento della politica monetaria negli ultimi mesi. Il fondo sovrano potrebbe essere deputato appunto a finanziare questo passaggio. Quando, nel caso in cui vi fossero ulteriori fallimenti e un'ulteriore perdita di denaro, questo significherebbe che, come è già accaduto, il governo cinese debba tassare le aziende statali per poter finanziare i piani di stimoli fiscali alle famiglie cinesi. E in tutto questo c'è il rapporto con gli Stati Uniti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un'escalation, una schermaglia diplomatica. È partito tutto con il caso Google, e si è parlato per un periodo di guerra web 2.0, quindi una nuova guerra fredda, un remake della guerra fredda, fino ad arrivare poi alla vendita delle armi a Taiwan e quindi la visita della Lama in America. Uno scambio di schermaglia molto pesante, che ha avuto delle discussioni diplomatiche molto forti, e in tutto questo ovviamente c'è il problema della rivalutazione dello yuan. Obama va all'attacco, il segretario del tesoro Gaither cerca di placare, di rimoderare le posizioni, perché quello che è emerso dalla crisi è che l'economia americana e l'economia cinese sono fortemente interdipendenti, quindi in questo momento è una sorta di cul-de-sac, cioè la Cina non potrà rivalutare lo yuan e non potrà esporsi alle fluttuazioni diciamo standard di mercato, dovrà restare ancorata al dollaro finché, questa è una tesi ampiamente condivisa, finché non sarà in grado appunto di modificare il proprio modello di crescita, quindi finché non sarà in grado di aumentare i consumi interni e quindi di iniziare appunto a smettere appunto di consentire di pagare il debito pubblico americano. Peraltro anche su questo aspetto vorrei aggiungere un ultimo elemento per poi rivolgerti delle domande. Le riserve valutarie, appunto la paura dell'America. L'America da un lato vorrebbe, spinge moltissimo affinché Pechino rivaluti lo yuan, acquisendo appunto delle posizioni comunque nell'ultimo periodo moderate, ma dall'altro teme che Pechino diversifichi le proprie riserve in altre valute. C'è stato nelle ultime settimane una grandissima paura, si è parlato di una fuga dal dollaro da parte del dragone, perché risultava che la Cina avesse venduto 34 miliardi di titoli azionari. E la domanda era: la Cina smetterà di comprare il dollaro, andrà verso l'euro? Cosa sta accadendo? La tesi più avvalorata era che la Cina semplicemente si sta spostando eventualmente verso le commodities, verso l'acquisizione quindi di materie di minerali, eccetera. La Cina, questa paura è rientrata, perché gli ultimi dati invece assicurano che la Cina è ancora il più grande creditore degli Stati Uniti, e la Cina tranquillizza, nonostante il premier cinese, nonostante il presidente della People's Bank of China, il governatore, accusino gli Stati Uniti pubblicamente, ufficialmente, di aver causato la crisi e di aver esposto la Cina a un grandissimo pericolo, perché ovviamente l'indebolimento del dollaro mina pesantemente la Cina, loro, perché è un modello che si basa. E in tutto questo la Cina ha in questo momento un atteggiamento di responsabilità. Questo è quello che emerge leggendo anche quotidianamente la stampa, che poi il lavoro che facciamo noi è da G-China. E questa poi è anche la partita su cui si giocano non soltanto le relazioni tra la Cina e l'America, ma tra la Cina e il mondo, perché non ci sono più, viviamo in un contesto globale, non solo è cambiata la Cina, ma è cambiato anche il contesto. Quindi la Cina sarà in questi nuovi scenari e nel futuro un, come si dice, responsible stakeholder, e in questo senso il fondo sovrano cinese, se da un lato infastidisce ad esempio gli americani, perché comunque è visto come ecco, un investitore un concorrente nel proprio territorio, dall'altro il fondo sovrano ha anche un ruolo di stabilizzazione, un po' perché è diverso da un hedge fund, quindi non ricerca il profitto immediato, ma come si diceva, gli obiettivi finanziari, ecco, di un fondo sovrano sono di lungo periodo. E dall'altro il fondo sovrano stesso ha, diciamo, degli obiettivi strategici, anche se a volte da una certa segretezza, che poi è una caratteristica di tutti i fondi sovrani, è riconosciuto che potrebbe avere questo ruolo, diciamo, di stabilizzazione. Quindi chiudo velocemente, mi spiace se mi sono dilungata, ma come vedete tutte queste mie riflessioni sono nate leggendo questo libro, tanto che ieri sera finivo di leggerlo, avevo veramente il mal di testa, sotto le domani, che cosa dico? Dico, perché potrei parlare di tutto, cioè leggendo questo libro si potrebbe davvero approfondire qualsiasi aspetto. Quindi ti volevo chiedere, alla luce, il libro è stato pubblicato ottobre, novembre dell'anno scorso, quindi mancano gli ultimi mesi in cui poi sostanzialmente si sono misurate, ecco, c'è stata questa escalation bilaterale tra USA e Cina. Volevo chiederti, appunto, alla luce oggi del raffreddamento, diciamo, della temperatura, del clima bilaterale, le paure rispetto alle attività del fondo sovrano negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo sono cambiate, e al contempo è cambiato anche l'obiettivo del governo cinese rispetto, appunto, a quelle che poi saranno gli obiettivi di lungo periodo del fondo sovrano, non soltanto finanziarie ma anche politiche? Sì, mi scuso anzitutto per il mal di testa causato ieri sera. Piacevolissimo mal di testa. Quando, io dico sempre, quando ci sono delle cose stimolanti, sì, grattano il cervello. Il testo, non solo per il fatto che tratta di un argomento sensibile e in continuo cambiamento come il fondo sovrano, ma anche per la maggior parte dei testi legati all'analisi della Cina moderna, è stato scritto con un'ottica non tanto legata all'analisi del momento, cosa sta succedendo in Cina oggi, per il semplice fatto che ero già conscio del fatto che una volta andato in stampa sarebbe già diventato un testo vecchio, desueto. Allora è stato improntato sull'analisi strategica su cosa il fondo sovrano e la Cina possono mirare nei prossimi anni, in ambito di 5 anni come panorama. Ovviamente molte cose sono cambiate, la stessa direzione del fondo sovrano che si accennava, da un investimento prettamente finanziario in Blackstone, in Morgan Stanley, Freeman e Lehman Brothers e via dicendo, è cambiato radicalmente, orientandosi non più 80-20% finanziario commodities, ma al contrario. Adesso puntano molto sulle commodities, Australia, come già accennato, Kazakistan, Indonesia, Africa e via dicendo. Il fondo ha sì una responsabilità, però non bisogna dimenticare che questa responsabilità è solo nei confronti della Repubblica Popolare di Cina. La Cina adesso ha già capito da tempo che non può più basare la propria economia su un modello di sviluppo come fabbrica del mondo. Deve sviluppare un mercato interno. Il mercato interno cinese ad oggi offre opportunità, ma opportunità che si svilupperanno negli anni a venire, in molti anni a venire. Nello stimolo fiscale che accennavi di 4.000 miliardi di renminbi, vi erano non solo opere infrastrutturali, che sono più o meno assommate più del 70% dello stimolo, ma anche incentivi nelle campagne per le famiglie ad acquistare, per esempio, beni di consumo che non avevano, come il frigorifero, come la macchina, la lavatrice. A quel punto è stato molto carino un articolo dell'Asian Wall Street Journal in cui accennava questa famiglia che ha avuto questi incentivi fiscali, che era riuscita a portare a casa la lavatrice, ma non aveva l'acqua per utilizzarla. E una volta che è riuscita a allacciare l'acqua e l'elettricità, si è accorta che il costo dell'elettricità era comunque di gran lunga superiore a quello che costava lavare i panni a mano. Quindi ci vuole ancora un po' di tempo per aspettare che questa esplosione del consumo interno permetta alla Cina di dire sì, non ho più tutta questa necessità dei buoni del tesoro americano. 34 miliardi di dollari venduti sono un'inezia rispetto a quello che il paese possiede ancora il debito pubblico americano, ma ad oggi questa simbiosi, volente o nolente, dovrà continuare per ancora un po' di tempo. In più, questo stimolo fiscale attuato dalla Cina ha permesso al paese di uscire per primo a testa alta tra tutti i paesi del mondo dalla crisi, crisi in cui l'Europa, con l'esempio greco, è ancora immersa. In questo caso lo stimolo è stato rapido, è stato veloce, è stato efficiente, ma ha creato molti altri problemi. L'innalzamento del costo degli immobili: per chi vuole comprare una casa a Shanghai i prezzi annui aumentano del 15% o anche del 20%, in alcune aree, che era un migliaio di euro al metro quadro, quelle più centrali si è arrivati a 5-8 mila euro al metro quadro, e stiamo parlando di Repubblica Popolare di Cina, a una borsa azionaria nata pressoché nel 2006, che dal 2010, inizio gennaio ad oggi, è salita del 72%, e l'anno precedente era caduta anch'essa con cifre del tutto simili, con delle oscillazioni spaventose. Questo per dire una cosa: che fino al 2006 il consumatore cinese, il cittadino cinese, non aveva possibilità di investimento, poteva mettere i soldi in banca. La popolazione cinese è una popolazione con una forte tensione al risparmio, per un ritorno dei propri risparmi inferiore al 2%. Nel 2006 si è aperta la possibilità di scommettere sulle azioni. In due anni nemmeno, in quel periodo, dal campo precedente al 2003-2004, le azioni sono salite di qualche decina di punto anno, per poi arrivare al 2005-2006 una crescita del 130%. Chiunque avesse messo dei soldi nelle azioni raddoppiava quello che ha messo. Ed è per questo che vi è stata una critica, anche non velata, a quanto si sia perso in Blackstone e Morgan Stanley. La perdita è stata ingente, se si vede la cifra di per sé, non se si vede in rapporto a quanto la Cina ha di riserve estere o a quanto i 300 miliardi del fondo sovrano possono disporre. Il problema è stato un impatto all'interno della Cina. Com'è possibile che il signor Wang di strada, autista di un taxi, gestore di un locale o via dicendo, portasse a casa col suo operato, investendo sul computer online, il 130%, e le migliori menti cinesi, laureate anche all'estero, perdessero dei soldi? Questo è stato il problema di base, che si comunque ha risolto. La fiducia accordata al Consiglio di Stato si vede al fatto che si è passati da 300 ai quasi 500 miliardi di dollari, e la scommessa del CSI è vitale per uno sviluppo sostenibile ed armonioso cinese, perché deve sovvenzionare il passaggio da un'economia produttrice verso l'estero ad un consumo interno. Quindi tutto quello che il CSI potrà avere di ritorno sui propri investimenti servirà a pagare questi stimoli fiscali e questa armonizzazione interna del paese. Lo stimolo fiscale è stato molto veloce e da coperto variare. Io quello ne ho avuto subito un esempio in Shanghai. La città ha una tangenziale sopraelevata che va dai 6-8 metri di altezza, che gira intorno a tutta la città per evitare problemi di traffico già congestionato. L'hanno ridipinta di bianco. Totalmente inutile, è più bello che rispetto al cemento armato come colore, non lo metto in dubbio. A cosa è servito? A dare lavoro a migliaia di persone, a dar lavoro a fabbriche che producevano vernice, a dar lavoro a fabbriche che producevano ponteggi per svariati mesi. Ma questo non è successo solo a Shanghai, è successo in tutta la Cina. Ovviamente ci sono stati poi dei problemi legati al fatto che molte aziende hanno utilizzato questi crediti non per sviluppo e ricerca, non per riassumere il personale licenziato, ma hanno a loro volta investito negli immobili in borsa che salivano così velocemente. Non bisogna dimenticare che nel momento più acuto della crisi, anche se non si è parlato tanto, la Cina ha avuto nell'arco di un mese dai 30 ai 50 milioni di disoccupati. Lavoratori migranti che lavoravano essenzialmente nelle fabbriche del tessile, fabbriche che non hanno più potuto produrre quei beni a basso costo assorbiti da Stati Uniti ed Europa. Hanno licenziato in tronco queste migliaia di persone, che per fortuna avevano comunque un minimo di risparmi. Queste persone sono tornate a casa in villaggi, ripeto, un villaggio in Cina ha anche 2 milioni di abitanti, dove vi erano per lo più donne, vecchi e bambini. E il problema di base è stato, in questi paesi, in questi villaggi, dar da mangiare, avere del riso per una popolazione che tutto d'un tratto da 1 milione è diventato 1,5 milioni, 2 milioni di abitanti. In 3-4 mesi la Repubblica Popolare, grazie a questo stimolo, grazie alla tempestività, è riuscita a cambiare il problema. Io adesso rimarrei a... Sì, mi sembrano due interventi ricchi di spunti, così io vi invito a fare qualche domanda, se ne avete, o qualche curiosità da proporre, prego. Due cose. La prima, sul fondo Blackstone, non è Blackstone? BlackRock è un altro. Quello sì, Blackstone è comunque un fondo di fondi, hedge fund americano, ha avuto proprio l'IPO all'inizio del 2007 e ovviamente con le conoscenze che aveva la dirigenza del CIC in seno al tessuto degli investimenti americano di Wall Street, sono riusciti a giudicarsi, prima ancora dell'IPO di Blackstone, una posizione molto forte all'interno della società stessa. È un fondo di fondi, cioè acquisisce altri fondi negli Stati Uniti, all'esterno e via dicendo. Non se ne parla più tanto, nonostante il sia pesato non poco, e anche tornando un attimo indietro nelle slide, nella shopping list negli Stati Uniti, questo è l'elenco rilasciato dal fondo sovrano quest'anno, proprio da un mese scorso, di quanto acquisito negli Stati Uniti. Non c'è Blackstone. Cosa vuol dire questo? L'acquisizione era del 9,9%, quindi non sono tenuti a una disclosure. Ma il discorso del mercato interno, sì, non è strettamente collegato al fatto che il valore del yuan è artificialmente basso, cioè banalmente moneta debole incentiva molto l'esportazione, sì, le industrie cinesi la maggior parte prodotti a basso valore aggiunto e quindi puntano soprattutto sul cambio favorevole. Qualora, come dice Gartner, avessero un yuan più valutato, molto più allineato al reale valore che dovrebbe avere, naturalmente l'export cinese sarebbe meno competitivo e allo stesso tempo il potere d'acquisto della popolazione cinese aumenterebbe e naturalmente qualora non mettessero dazio altre limitazioni si creerebbe una maggior forza, diciamo, il potere d'acquisto della Cina e direbbero anche chiaramente degli importatori e quindi il modello si equilibrerebbe abbastanza automaticamente. Sì, su questo della mano invisibile del mercato di Alan Smith in ambito cinese come riequilibrio non lo vedo così fattibile in un breve termine. Essenzialmente è fattibile se ovviamente non vogliono seguire logiche di mercato, è ovvio, se vogliono continuare a condurre una sorta di guerra economica e quindi a pompare sull'export. No, la Cina ha già cambiato da tempo il concetto di export. La stessa industria cinese nell'ultimo piano di sviluppo quinquennale, l'undicesimo, è stata orientata verso una miglioria dei sistemi produttivi con un migliore know-how. Quindi siamo già in una fase di processo in cui la Cina non produce solo più magliette. Per chi ha degli investimenti in Cina, produrre a basso costo è diventato caro. Però adesso per produrre a basso costo si produce in Vietnam e in Cambogia. Ok, però a tutt'oggi la Cina, quanto so io, è il primo esportatore mondiale. Certo, indubbiamente lo yuan debole avvantaggia le esportazioni e ci sarà un apprezzamento in un prossimo futuro. Non bisogna dimenticare però i flussi di hot money all'interno della Repubblica Popolare di Cina che sono semplicemente in attesa di una rivalutazione del yuan. La Cina negli ultimi 5 anni ha cercato di bloccare qualsiasi tipo di investimento diretto estero teso solo a una speculazione finanziaria. Milioni di euro e di dollari sono entrati nel territorio cinese, ricambiati in renminbi, in attesa che il renminbi salga. Quello che è successo nel 1997 con la crisi dei tigri asiatici. In questo caso, con un buon apprezzamento del renminbi, non solo di qualche punto come è avvenuto negli ultimi anni, questi soldi tenderebbero a fuoriuscire in maniera estremamente veloce e dannosa nel paese e questo non sarebbe funzionale a uno sviluppo armonico e sostenibile. Continuiamo adesso, ha toccato l'aggettivo, il sostantivo anche, guerra cinese nel mercato. In questo caso, facciamo un passo indietro, 2007, 2008, 2009, crisi finanziaria. Crisi finanziaria è una crisi di hedge fund, è una crisi dei private equity, è una crisi dello short term, è una crisi del nostro mercato senza regole che punta al profitto immediato e a breve termine. No, questo io sono d'accordo, la crisi era dei bassissimi tassi di interesse sul denaro, se il denaro e i tassi americani erano praticamente al zero. No, sulla necessità dell'apprezzamento dello yuan sono tutti pressoché d'accordo, sul fatto che un apprezzamento dello yuan aumenti la capacità di spesa locale, no. Su quello posso permettermi di dissentire. In ogni caso il problema è legato all'agricoltura, un'agricoltura che non è ancora competitiva nei confronti dei prodotti americani, Monsanto per intenderci, vi dicendo, che deve essere portata a un livello di competizione tale da poter far sì che senza dazi possa comunque competere ad armi pari, redistribuzione delle terre e via dicendo. Questi sono i grossi scogli per lo sviluppo della domanda interna. Una volta che il renminbi si apprezzi, ovviamente porterà a un calo delle esportazioni, ma in questo ci tengo a portare un esempio molto pratico di parecchi anni or sono, di quando gli Stati Uniti hanno fatto sì che la Corea del Sud potesse avere un'esenzione per l'esportazione dei televisori. In America c'era un televisore X di marca americana, mettiamo un prezzo a caso $50, il televisore coreano $10. Lobby dei televisori americani si sono rivoltati, dopo un anno di lobbying gli americani hanno deciso, va bene, tassiamo i televisori coreani, $20 a televisore. A quel punto il televisore coreano costava $30, molto più caro, ma chi non poteva permettersi 50 del televisore americano continuava a comprare quello coreano. Semplicemente la popolazione si è trovata ad avere un aumento dei prezzi di un bene di consumo che comunque non poteva portarlo a consumare quello americano, prodotto in America. Dopo nemmeno 6 mesi la tassa speciale è stata tolta su protesta popolare. Questo è un po' il senso. Lo yuan indubbiamente nel breve avrà degli apprezzamenti, in seguito anche. Quello che più che altro preoccupa è il fatto che gli Stati Uniti, che non vi è solo più una realtà come moneta di riferimento monetaria assoluta e globale, che era il dollaro, adesso c'è anche l'euro. Quindi adesso con l'espansione economica cinese sui mercati esteri non possiamo paventare un G2, un duopolio cinese-americano, è ancora troppo presto per questo. Però è giusto discutere, è giusto iniziare a pensare a più paesi che iniziano a cogestire un equilibrio mondiale. Spero di aver risposto alla domanda. Ecco, non so se questa discussione è risultata chiarissima, però magari vorrei invitare qualcuno a fare qualche domanda di carattere più politico, così magari allarghiamo un pochino più il dibattito, perché se no finiamo nel magari qualche argomento non troppo chiaro per tutti. C'era prima Martino, poi signor Rifondo. Volevo fare 3 domande. La prima, forse per il professor Bruno, se e come il governo cinese sta gestendo in esercito o in, non so, come, la difesa, cioè dell'esercito cinese, dell'aspetto più guerresco cinese si sa molto poco. Per cui volevo chiedergli se lui è andato a spiegarci qualcosa e se magari gli investimenti sono stati fatti in questo senso. La seconda domanda, è, invece magari la faccio a entrambi, è se in relazione al discorso della trasformazione dell'economia da fortemente incentrata sulle esportazioni invece ad un ritorno al mercato interno, se questo potrebbe avere delle conseguenze a livello sociale. Cioè, ricordavo prima la scodella di riso nella ciotola di metallo, cioè se nel momento in cui un grande numero di cinesi dovesse cominciare a avere un livello di vita migliore di quello attuale, se questo potrebbe avere delle conseguenze a livello di rivendicazioni, penso al welfare, comunque insomma, di questo genere. La terza invece per la dottoressa Spalletta, dal punto di vista dell'informazione, noi sappiamo che in Cina è in vigore una forte censura. Rispetto al vostro lavoro, che poi influenza anche la nostra conoscenza di quello che è il mondo cinese, non vorrei fare una domanda eccessivamente scomoda, perché poi il giornalista dovrebbe lavorare sui suoi fonti, però come lavora AgiCina e come in base a cosa voi valutate le informazioni che ricevete e che la Cina emette, perché non so se magari è una cosa sbagliata, ma presumo che il governo cinese abbia un forte controllo sulle informazioni che emette, per cui in base a cosa voi valutate le informazioni. Sulla prima, per quanto riguarda PLA, People Liberation Army, per certo non si può dire, ma il fondo sovrano cinese non è all'interno del capitale sociale del PLA. Di notizia lancio, la Cina ha ridotto drasticamente il budget di quest'anno per l'incremento del proprio esercito, però lascerei alla collega sinologa magari parlare meglio di questo, perché mi sono sempre concentrato su un discorso prettamente finanziario economico e non ho sufficienti dati nemmeno per poter gestire in pochi minuti questa domanda. Al contrario, sulla seconda ci terrei a sottolineare una cosa, è una domanda estremamente interessante che la Cina si è posta 10 anni fa. Già da una decina d'anni, per chi era abituata a vivere in Shanghai, si è visto il passaggio, anche fin troppo repentino, dalla bicicletta alla macchina, dalla macchina alla casa di proprietà e adesso nella città non è difficile ad ogni incrocio trovare, non dico una Porsche all'angolo, ma il Cayenne, sono in molti ad averlo. Ovviamente i ricchi, veramente ricchi, sono una percentuale minima, ma prendiamo una percentuale minima su una città come Shanghai che ha 20 milioni di abitanti. Già solo mettendo il 3% diventa una cifra considerevole. Il problema dell'arricchimento, adesso a questo punto, è un problema di stabilità sociale che si gioca non tanto all'interno di aziende, di posti di lavoro, via dicendo, perché nonostante la crisi della disoccupazione dei giovani laureati, ogni giorno apre un'azienda nuova in Shanghai. Fortune 100 ci sono tutte, Fortune 500 ci sono quasi tutte, quindi c'è anche un ottimo mercato per lavoro per i giovani. Il problema è il duopolio campagna-città. Lì sì che lo stimolo fiscale, lo stimolo della domanda deve arrivare non tanto nelle città che sono già sviluppate, soprattutto le aree costiere, ma deve arrivare nelle campagne. Una volta risolto il problema dei contadini, di un'equa distribuzione delle ricchezze e di aumento in questo caso della capacità di spesa della popolazione contadina rurale, a quel punto lì sì che la Cina è sul giusto track per le riforme. Adesso lascio alla collega. Sì. Dunque, la Cina ha più che sta investendo ovviamente nelle forze armate, ma in modo non così significativo. Quello che la Cina sta attuando è più che altro una modernizzazione, ecco, una ristrutturazione delle forze armate, introducendo proprio dei criteri aziendali, una sorta di business plan proprio per rendere l'armata di liberazione popolare un esercito efficiente. Di recente, il documento diciamo più recente è il libro bianco sulla difesa nazionale, e in cui vengono indicate le missioni storiche. La missione principale dell'esercito ovviamente è tutelare la supremazia della Cina. La Cina non si è mai trovata, forse questo è un falso storico, ma adesso mi spiego. Per la prima volta la Cina ha una supremazia a livello internazionale e si sente quasi legittimata a revisionare l'ordine internazionale. Un ordine che quando è stato creato la Cina di fatto non esisteva. La Cina ai tempi del Celeste Impero governava moltissime regioni, ma comunque limitate all'Asia, al Pacifico, fino all'Himalaya. Oggi in un contesto globale è evidente che la Cina guardi anche all'ammodernamento delle forze armate, però non più che le forze armate vere e proprie, perché poi la Cina si sta muovendo nella conquista o comunque nell'affermazione della propria supremazia attraverso, come si diceva, le armi del soft power, quindi attraverso strumenti monetari, attraverso strumenti culturali. La Cina guarda più che altro alle rotte marittime, a tutelare le rotte marittime. Quello è un aspetto cruciale su cui infatti AG China sta preparando un focus, quindi appena sarà pronto dal nostro corrispondente ve lo invio, così magari potremo fare anche una lezione in futuro proprio su questo, perché è un aspetto fondamentale. Per quanto riguarda, e qui arrivo all'altra domanda, l'informazione, in realtà devo dire, noi di AG China non riscontriamo una difficoltà eccessiva, ecco, nell'accesso alle informazioni, e mi spiego. È vero che in Cina c'è la censura, come non c'è, è stato il terreno di scontro recente nel caso Google, che infatti si è misurato proprio sul piano della censura e non nella difesa, e questa è una distinzione fondamentale. Quando il caso Google si è poi spostato anche sul terreno diplomatico, non si è mai parlato di difesa, si è parlato di un irrigidimento, ma sempre nel piano della censura. E quindi senz'altro questo elemento c'è, però c'è anche il modo per bypassarlo. Quindi gli stessi blogger cinesi, poi facciamo una distinzione tra i media occidentali e i media cinesi, cosa significhi essere un giornalista cinese in Cina, questo non lo so, posso immaginarlo, senz'altro è più difficile, non tanto per la carta stampata, ma per la televisione. Anzitutto, questo è vero soprattutto per quanto riguarda la tranquillità con cui un intervistato cinese si pone rispetto ai media. Davanti a una telecamera c'è un irrigidimento, una sorta di... La carta stampata invece è più libera. E per i media occidentali c'è una relativa facilità nell'accesso alle informazioni, proprio perché da un lato è nell'interesse del governo far sapere, quando si parla soprattutto di economia e di finanza, devo dire che Pechino, il governo stesso, quindi i media ufficiali, noi abbiamo un rapporto con la Xinhua, China traduce ogni giorno le Xinhua, la Xinhua è l'agenzia di Stato cinese, le notizie della Xinhua dal cinese all'italiano, fornendo un servizio gratuito e di grande valore proprio per la qualità poi delle traduzioni. Nelle Xinhua che noi traduciamo ogni giorno notiamo un livello di critica e di apertura, ecco, rispetto a opinioni che possono magari mettere in discussione ad esempio la legittimità del modello di sviluppo e anche del modello politico, anche se ovviamente quando si parla di politica e di Partito Comunista Cinese è molto più difficile reperire informazioni. Però quello che noto è una facilità maggiore rispetto agli anni scorsi e per quanto riguarda i contenuti più sensibili, la possibilità di bypassare. In Cina non si usa Facebook, non si usa Twitter, in realtà tutti lo usano perché grazie a dei software si riesce a bypassare. Il blogger cinese che scrive cose scomode al Partito Comunista, che sono magari per noi curiosi, giornalisti, osservatori, importante appunto, di importante lettura, il blog viene oscurato per qualche giorno, il blogger che fa sposta e si sposta su un altro dominio. Quindi la metafora che si usa in Cina è quella di una gabbia, all'interno della quale è consentito volare. La gabbia qualche anno fa era molto stretta, molto piccola, pian piano si sta allargando. Si è sempre all'interno di una gabbia, perché ovviamente i watchdogs cinesi, ieri stavo parlando del Fondo Monetario con il mio collega, il corrispondente, a un certo punto si è bloccata la conversazione. Sarà stato un caso, non lo so, però spesso mi capita su Skype o al telefono che vi siano delle interferenze quando si parla di... Quindi, un intervento là dietro forse? Sì, no, io ho una domanda che però è abbastanza specifica perché sto studiando quello per la mia tesi di laurea e no, mi interessava sapere perché lei faceva una cenno e basta al problema della riorganizzazione della trasparenza, per cui che possibilità realistica c'è per i principi di Santiago ovviamente, piuttosto che quello che l'Ox sta facendo per gli hosting, piuttosto che per la Chamonix, cioè di questi tentativi di regolamentazione di trasparenza che però appunto agli occhi di uno studente tra l'altro appunto che ha le prime armi con i fondi sovrani con queste moli enormi sembrano più che altro copertine perché appunto poi basta che un'azienda cinese normalmente assuma con gli asset con meno del 10% non deve cominciare niente, no? Per cui volevo chiedere che possibilità c'era da questo punto di vista e se erano strategie o opzioni realistiche. Più che opzioni è una necessità. Santiago non ha ancora discusso quelli che saranno i reali set e le possibilità di movimento dei fondi sovrani. In questo la Cina si è sempre dimostrata disponibile a dei multilaterali sia con l'Europa che con gli Stati Uniti. Multilaterali che sono ancora in essere e si sta ancora discutendo ampiamente su questa regolamentazione. Sino ad oggi non è stato molto preso in considerazione il fatto perché finché erano paesi come gli Emirati Arabi che investivano petrodollari all'estero, si sapeva più o meno come canalizzare questi fondi. Non adesso il caso, soprattutto quando non c'è più solo una valuta unica di riferimento. Quindi Santiago è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, su questo non c'è dubbio. In questo tenderei a sottolineare una cosa, continuiamo a parlare di trasparenza, di necessità di nuovi paradigmi. Forse non è il caso iniziare a pensare che siamo in una svolta epocale in cui i nuovi paradigmi non sono più tanto mercato libero, non libero mercato, paese di sviluppo, paese in via di già sviluppato, in via di risviluppo, magari possiamo iniziare a pensare a due modelli differenti, soprattutto con la crisi in essere, paesi debitori e paesi creditori, e noi non siamo più tra i paesi creditori. C'è la prima... Io? Sì, sì. Quest'anno sono stato in Africa e mi hanno spiegato che gli investimenti cinesi sono fusione massicci, trovavo riscontro nel suo grafico, intanto hanno a che fare con il neocolonialismo, ovvero sia a breve quella che noi pensavamo che è stata una globalizzazione verso la Cina la farà, o la sta già facendo verso l'Africa. Sì. Su questo non ho dati precisissimi perché l'Africa per me è sempre stata di interesse minore rispetto agli altri paesi, non avendo la possibilità di coprire tutto l'investimento. Su questo posso citare due cose. Sì, molti tacciano le cene di neocolonialismo in ambito africano, ma la Cina investe in Africa non da ieri, non negli ultimi anni. Già dagli anni 70 o da ancor prima la Cina aveva dei rapporti di scambio. Mi ricordo quando ero più giovane, fra virgolette, all'Università di Pechino, la maggior parte degli studenti negli anni 90 erano studenti di ingegneria e di medicina provenienti dall'Africa. Soltanto dopo, verso gli anni 90, vi è stata una svolta con più studenti occidentali, americani, europei e via dicendo. Quindi già dall'epoca la Cina, che non aveva un fondo sovrano, che non aveva riserve in valuta estere, investiva nella cooperazione chiamata tra paesi in via di sviluppo. Esempio lampante di questo la ferrovia Tazara, tra Tanzania e Zambia. Ferrovia contrapposta all'autostrada costruita dagli Stati Uniti. Autostrada, mercato libero, ognuno può entrare col proprio mezzo e trasportare delle merci, ferrovia legata a uno spostamento gestito dal centro. La ferrovia ad oggi è un chiaro esempio di funzionamento del mercato, al contrario l'autostrada ormai non è più pressoché utilizzabile. Quindi su questo della presenza cinese in Africa potremmo parlarne per ore, a dire il fatto che mi è stato detto da studiosi giapponesi che operano in ONG, conoscenti proprio in Tanzania, che persino i venditori di gelato per strada adesso sono cinesi e non sono più africani, perché dei migliaia di operai cinesi che sono andati a costruire dighe, a costruire strade, sono rimasti in Africa perché si sono accorti del potenziale, perché i locali si accontentano di arrivare a un certo livello di income e poi o cessano del tutto di lavorare finché non spendono tutti i soldi, o comunque sono contenti di quel ritmo di lavoro. Il cinese che è abituato a lavorare 7 giorni su 7, tutti i giorni della settimana, in orari di almeno 12 ore al giorno, si è trovato con delle possibilità incredibili. E non parlo del fondo sovrano, non parlo dell'azienda, parlo del singolo che è rimasto a vendere i gelati in Africa. C'è un intervento della professoressa? Questo il paese, come dicevo prima, ha questa necessità fondamentale di armonizzarsi al proprio interno, proprio la parola armonia è fondamentale all'interno della cultura cinese, che non è la cultura cinese di oggi del partito, ma la cultura confuciana. Non bisogna dimenticare una cosa, noi vediamo armonia in un contesto cristiano, in un contesto occidentale, in cui armonia è pace. Armonia in chiave confuciana non necessariamente vuol dire pace. In ogni caso la Cina, adesso penso che il collega possa confermare questo, non ha mai avuto nel corso della storia dell'impero, di un impero così vasto che all'interno ha già tutto, necessità espansionistiche o guerra fondaia e via dicendo. La necessità pratica cinese dell'esercito in questo caso è della protezione del commercio marittimo, dell'approvvigionamento delle navi petroliere, dell'approvvigionamento delle commodities via mare. Quello è un obiettivo che adesso in ambito hollywoodiano il nemico di turno si stia diventando dalla persona araba alla persona cinese, sì, dal punto di vista palpabile si può avvertire questo. In ambito prettamente cinese, se uno guarda maggiormente, non dico le telenovela, ma i programmi locali aperti al pubblico di massa, sono programmi tendenzialmente educativi comunque, che sottolineano quelli che sono i mali che affliggono la Cina al momento, mali interni del paese, non tanto verso l'esterno. La Cina in questi 5.000 anni di cultura ha sempre visto le proprie necessità del proprio interno, basti pensare alla parola stessa Cina, in cinese Zhongguo, cosa vuol dire? Regno del centro, regno di mezzo, fulcro, punto focale. La prima volta che mi sono stupito è stato quando sono arrivato all'università a Pechino e ho visto una cartina geografica. Sono sempre stato abituato a vedere l'Europa, l'Asia e gli Stati Uniti, di no c'era la Cina e il resto del mondo. C'è un intervento da dietro, sì? Prego. Volevo fare una domanda di carattere generale. Vedevo, rispetto alla capacità che gli organismi internazionali hanno di rilevare l'economia, appunto come la internazionale, la Banca Mondiale, e la cultura economica che sono proprio quelle organizzazioni, Cosci Consensus, le turine o le crisi che non sono alla parte, c'è una possibilità in qualche modo anche sì, su questo stavo cercando la slide su cui non mi ero fermato troppo, ma c'era proprio un accenno a questa domanda, molto importante. E poi, appunto, anche in coda a questa domanda volevo chiederle se così potesse tratteggiare la differenza tra pianificazione economica in un regime, diciamo, di centro di mercato e pianificazione economica secondo il tecnico della socialista classica. Certo. Allora, la prima, sotto nell'ultima slide, ostilità. Al momento sì, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale continuano a gestire a grosse linee quelle che sono le politiche globali dei paesi OECD, ma nonostante il peso, che si è visto con le cifre, della Cina sui mercati esteri, quanti funzionari cinesi di alto rango sono presenti all'interno di questi think tank e di questi meccanismi di gestione globale? Pochissimi. C'è una fortissima ostilità, un forte ostracismo nel permettere ai funzionari cinesi di arrivare ad alti livelli della IMF, della Banca Mondiale, e di B non ne parliamo perché da sempre di B è un presidente giapponese, e via dicendo. In questo caso la Cina si sta muovendo lentamente, in maniera molto umile, di inserire i propri funzionari, ma potrebbe già a gran voce obbligare tutte queste istituzioni ad avere e a dare alla Cina un maggior peso conseguente alla realtà economica che rappresenta. Come dicevo prima, iniziamo a distinguere paesi debitori e creditori. I fondi sovrani maggiori si trovano nell'area del BRIC, ma l'area del BRIC è un'area estremamente sottorappresentata in tutti gli organismi decisionali di carattere economico monetario di stampo internazionale. E questo è un disequilibrio. Perché questo? Recentemente Zhu Min, special advisor del Fondo Monetario Internazionale. Special advisor. Advisor. Ed è un economista comunque di primaria formazione, primaria importanza. Il discorso dell'esempio era sul che chiedeva il piano quinquennale di retaggio cinese e quello sovietico. Essenzialmente in due parole, senza andare a fare troppi raffronti o d'altro, l'approccio economico cinese, che si voglia chiamare socialismo di mercato o quant'altro, è un approccio estremamente pragmatico. Ricerca del problema, soluzione del problema. E questo lo si può vedere non tanto nel modo di ragionare dei funzionari cinesi, ma anche dalla loro estrazione. Solo i più giovani all'interno della scuola del partito, e comunque sono sempre scelti tra i migliori studenti universitari, hanno lauree in scienze sociali, in giurisprudenza, in scienze politiche, in affari internazionali. La stragrande maggioranza dei tecnocrati cinesi, con un'età che varia dai 45 ai 65 anni, 60 anni all'interno del governo cinese, ancora giovane, hanno una laurea in ingegneria. Jiang Zemin, prima di diventare Presidente della Repubblica, come sindaco di Shanghai, era ingegnere. Lo Jiwei, dopo la rieducazione delle campagne, era 5A e ha studiato econometria sui modelli computerizzati. E prima di divenire viceministro delle finanze, ha avuto vari anni di praticantato come governatore di una delle regioni più povere della Cina. Quindi, qualsiasi ministro cinese, prima di arrivare alla poltrona di ministro, in stragrande maggioranza delle volte è stato governatore di una regione o sindaco di una città con milioni di abitanti. Cioè, lo stesso Jiang Zemin diceva, prima di tenere le redini della Cina ho dovuto gestire decine di milioni di abitanti della mia città che ogni giorno dovevano bere e mangiare. Con un intervento parlante, prego. Legando a tutto quello che problema delle risorse umane, gestione delle risorse umane è un problema estremamente complicato e fondamentale, non solo all'interno del CIC, ma all'interno di tutta la compagine cinese. Il semplice fatto che prendiamo solo un esempio molto ristretto, quello del CIC, acquisendo in Africa, Asia centrale, Stati Uniti, Europa, ha la necessità di mandare anche dei propri inviati a seguire questi investimenti. Ha bisogno di persone con una conoscenza locale. Le nostre aziende, quelle che sono riuscite a far fruttare i propri investimenti in Cina, nell'arco di 20 anni hanno creato delle figure non solo di sinologi, ma di persone che oltre a parlare l'italiano e il cinese avevano competenza di Cina in come la Cina pensa e in come la Cina gestisce il proprio business all'interno del proprio confine. Lo stesso adesso la Cina si trova a fare in maniera inversa e a 360 gradi su tutto il mondo. Costruire competenze, costruire giovani che si formino nel gestire non solo gli investimenti, ma il modo di negoziare, di capire il modo di pensare di realtà diverse. Io in questo caso ne approfitterei perché tra il pubblico c'è la dottoressa Bombelli, che è esperta di gestione delle risorse umane, quindi potrei girare un attimo la domanda. No, mi sembra quello che dite. Grazie. Posso raccontare? Prego, prego. No, volevo raccontare un aneddoto, insomma la mia esperienza. Quando ho lavorato per un periodo per un fondo di private equity, occupandomi della relazione con gli investitori erano due banche statali cinesi. Una degli aspetti che poi hanno convinto le banche ad investire in questo fondo, che era un fondo ed è un fondo italiano, quindi sino-italiano, è appunto la formazione delle risorse. Questo è un aspetto che peraltro nel libro viene approfondito, la mancanza di figure professionali, di analisti finanziari e le banche cinesi poi che hanno investito nel fondo ovviamente hanno selezionato dei funzionari interni per poter poi venire a lavorare nel nostro fondo di private equity e la promessa di una formazione che sarebbe avvenuta presso le maggiori università, Harvard piuttosto che, è stato un elemento davvero molto importante, un elemento persuasivo fondamentale. E oggi mi chiedo, questi analisti che ormai lavorano da 2-3 anni sono diventati effettivamente concorrenziali proprio in un contesto internazionale, potrebbero essere dei papabili candidati per il fondo sovrano che si dice poi nel libro, con questa grandissima crisi che ha assolutamente messo in ginocchio il mercato finanziario occidentale, c'è un pool di talenti in giro che... Sì, su questo indubbio, il fatto che molte banche siano fallite, sia una crisi, ci sono tantissime figure professionali non cinesi, Wall Street, nella City, che possono essere appetibili. Però quanti di loro hanno intenzione di vivere in Cina? Quanti di loro parlano cinese? Quanti di loro possono comprendere una cultura del lavoro cinese non basata su dei bonus multimiliardari, ma basata più che altro su delle anche scalate di tipo di gruppo, quindi più politiche che non direttamente legate alla prestazione. Questo trovo interessante un caso, ho stato invitato qualche mese or sono alla Facoltà di Economia e Finanza di Torino per dibattere con questo e lì sono stato io a fare una domanda a tutti gli studenti, uno studente di Master in Finanza. Quanti di voi vorrebbero lavorare ad oggi durante la crisi a Wall Street? Quanti nella City e quanti a Shanghai? 100 persone, 80 Wall Street, 17 la City, 3 Shanghai. Nonostante sia ben chiaro oggi dove la bussola, l'ago della bilancia, si sia spostato come paese predominante, come economia che si può mettere sui mercati. La volontà è ancora quella. Ad oggi il CIC ha una fortissima necessità di figure professionali qualificate, ma la scelta nel 99,9% dei casi ricade sui cinesi che hanno studiato all'estero e che vengono fatti ritornare con delle ottime promesse verso il proprio paese. Proprio per il fatto che, banale a dirsi, parlano cinese. Prego, c'era un intervento. C'è una grande passione per la Cina. Ci ho vissuto da 67 ad oggi, 10 volte, un anno e mezzo, ho fatto di tutto, mi ha dato i gruppi, ho lavorato, fine. Ho maturato negli ultimi mesi, confronti così, la convinzione che noi in Occidente siamo presuntuosi rispetto globalmente, quando parlo confucianesimo, cultura cantosa, e la sto portando avanti perché fare una decina di esempi. Il ministro Medici che fa un pranzo ufficiale col formaggio, cinese, ma di cinese non sa parlare, al marketing della Fiat, che va giù con le piccole, che è iniziato con le piccole macchine, quando le, i miliardari comprano la Ferrari. Quindi, e posso farne tanti, mi sto guardando. Ecco, chiedo a voi che ci siete dentro se la mia comprensione, ma anche la prevenzione esplicitata in pubblico, è troppo forzato e condivisibile. Su questo normalmente tendo sempre a affrontare le problematiche in chiave virtù mediares, non do mai né ragione o torto. Su quello che appena adesso ha detto sono totalmente d'accordo al 100%, assolutamente, tutto quello che ha detto. Proprio per il fatto che... Prego. C'è solo una domanda, perché è importante rispetto alle cose che dicevate prima. Quanto oggi il socialismo di mercato non sia un'invenzione, ma si radichi sia sull'aspetto appunto confuciano, e quindi dell'equilibrio, sia sull'elemento collettivo, perché è la domanda, ma è una considerazione, la società cinese è fortemente collettivista. Beh, di per sé il confucianesimo non è una religione. È uno strumento etico comportamentale che descrive come comportarsi all'interno della società, questo in primis. Questo ritorno al confucianesimo e al valore dell'armonia ne è assolutamente la riprova, quindi su questo continuo, ripeto, ad essere d'accordo. Al di là del fatto che se la Fiat avesse puntato con Lancia Alfa Romeo 15 anni fa, forse andava meglio della Palio. No, c'era un... Ah, come volete. Se vuoi fare una domanda veloce... Stress. Sì, prego. Se c'è un punto di forza che ha il capitalismo americano che continua a mantenere il socialismo di mercato cinese, è la sua capacità di generare innovatività. Vuoi il suo parere riguardo a questa prospettiva dal punto di vista Sì, nel discorso innovazione, ricerca e via dicendo. Indubbiamente. Uno degli aspetti del libero mercato è indubbiamente questo. Singapore già 10 anni fa aveva puntato sulla necessità della creatività e della ricerca, però in una maniera fin troppo pragmatica, cioè aveva fatto dei corsi universitari di creatività. Ecco, non è una cosa innata, non è una cosa che deriva dal DNA delle persone, ma una cosa che va costruita con degli orizzonti temporali abbastanza ampli. Io quest'ultima domanda che ho posto in maniera alquanto provocatoria era legata alla mano libera di Adam Smith, del mercato, che da sola riesce a mettere a posto gli equilibri, che da sola stimola la ricerca e via dicendo. Non bisogna dimenticare però 5 anni prima, nel 1759 se non erro, Adam Smith aveva scritto un altro testo, che era la problematica della morale e dell'etica nel business. E quindi in questo caso dobbiamo vedere altre cose. Dove il libero mercato ci può portare a questa ricerca? E dove invece può creare delle frizioni. C'è un articolo molto recente di un economista americano di origine giapponese, Fukuyama, dove parla di quello, della mancanza di research and development. Sì, la Cina è stata bravissima a copiare fino adesso, ma quando dovrà innovare ne sarà capace. Al momento abbiamo solo la risposta giapponese. Il Giappone è passato dalle copie, anche se dell'elettronica a basso prezzo, a un'innovazione non indifferente. Non è detto che la Cina faccia lo stesso, perché la Cina, nonostante sia in Asia, nonostante mangino con le bacchette entrambi i paesi, non è il Giappone. Una domanda molto semplice, forse banale. Voi avete usato sempre il socialismo di mercato, no? E sarebbe forse più giusto dire dittatura con mercato? Sì, su questo normalmente le domande più semplici sono le più difficili da rispondere, e questo nel caso. Viene utilizzato spesso il termine capitalismo autoritario. Vi è un bellissimo libro appena uscito nel 2009, Good Capitalism versus Bad Capitalism, negli Stati Uniti, che parla proprio di questo. Indagini proprio dell'IMF, non solo in questi anni, ma negli ultimi 15 anni, hanno dimostrato comunque che nel breve termine il capitalismo autoritario è più funzionale al libero mercato che non alla democrazia. Non necessariamente però può portare a uno sviluppo a lungo termine. Quindi possiamo dire che nel breve, indubbiamente, in aree come la Cina, dove si è deciso di costruire la ferrovia ad alta velocità Tianjin-Pechino, la decisione è stata presa 14 mesi dopo la ferrovia è stata costruita. In Italia penso che per gli ultimi 23 carotaggi della TAV ci sia voluto forse un po' più tempo. Ciò non toglie una cosa, che noi abbiamo la possibilità di discussione su questo, ed è fondamentale. Là si reagisce in maniera veloce, in maniera appropriata, ma viene anche meno un discorso di quello che è la democrazia è necessaria al libero mercato. Però partiamo ancora questo dal discorso della storia di un paese come la Cina, che arriva da migliaia di anni di impero sino ad oggi, 1911 e dopo 1949, Repubblica Popolare di Cina. Un esempio simile ce l'abbiamo col vicino russo. Dopo la perestroica di Gorbaciov, cosa è successo? Sì, però lei ha usato il termine democrazia, quindi era sul, però il termine invece che ha usato prima era socialismo. Che non socialismo di mercato, sì, intendevo questo. Un'altra definizione del socialismo di mercato. Sì, sì, viene definito ad oggi. Io su questo cito una curiosità. Dico, siccome viene usato. Sì. Certo, no, può essere usato in maniera altamente intercambiabile col discorso di capitalismo autoritario, cioè un'economia di mercato gestita centralmente dallo Stato. Questo è essenzialmente quello che è. Lo stesso Deng Xiaoping, con la politica di apertura delle porte, ha lasciato, ha detto, arricchitevi, lasciate però le redini della politica allo Stato. E così è stato. No, perché siccome il socialismo di mercato si è coniato negli anni 30-40 da un professore che si chiama Don Maurizi, sconosciuto alla grande massa delle persone, però pensavo un'altra cosa. No, no, questo è un termine che è stato utilizzato estremamente di recente in ambito della Repubblica Popolare di Cina, e su questo ho due testi interessanti sulla mia scrivania in Shanghai. Uno risale al 2000, scritto da un famoso economista di Stato cinese, con scritto La Cina verso l'economia di mercato. Dopo 5 anni lo stesso economista inizia a parlare La via del socialismo di mercato. Questo è, ripeto, una definizione corretta, penso che il collega mi potrà confermare, non esiste ancora nemmeno in seno allo stesso Partito Comunista Cinese, perché è ancora un divenire estremamente ampio. Ci sono altre domande? Prego. Onnipresente. Da studente di storia, e anche in riferimento a quello che diceva lei prima, ho visto la cartina e non eravamo al centro, cioè non ero nero al centro. Nell'esperienza di entrambi, che storia si insegna in Cina? Nel senso, noi abbiamo una storiografia ovviamente tutta eurocentrica. Certo, su questo allora il discorso complesso lo lascio alla collega che di sicuro ha ben più informazioni del sottoscritto. Citerei un altro esempio del paradigma degli occhi che utilizziamo noi, di mettersi sempre in ambito eurocentrico rispetto a qualsiasi punto di osservazione. Recentemente ho avuto l'occasione di avere delle delegazioni dei porti e degli aeroporti italiani che cercavano, fra virgolette, di vendersi ai loro referenti cinesi per far sì che ci fossero più aerei cinesi in arrivo sull'Italia e più linee di navigazione cinese sui nostri porti. La chiave di volta di tutti gli speech per la vendita dell'Italia era l'Italia, cuore dell'Europa. Molti cinesi interessati direttamente all'Italia vedevano come competitor dell'Italia Malta e la Tunisia, perché per tutti l'Italia è la porta dell'Africa. Questo solo per il paradigma. Io sono rimasto lo stesso che io, sconcertato dopo 13 anni di Cina, ma quella era l'ottica con cui venivamo visti. Quindi in ambito di libri di storia adesso lascio nello specifico la risposta. Sì. Dunque, è una domanda che io mi pongo da circa 10 anni, cioè dal primo momento in cui ho messo piede in Cina, perché ovviamente presa da impegni di studio e di lavoro non ho mai avuto modo di leggere un libro di storia dell'Europa in cinese, ed è una cosa che vorrei fare. La riflessione che posso condividere oggi con voi è questa: i cinesi conoscono molto bene la storia dell'impero romano, la storia classica, ma non hanno una concezione di quello che è la storiografia moderna e contemporanea. O meglio, hanno una concezione, ma è una concezione un po' distorta. E la domanda ricorrente che poi noi sinologi ci poniamo, sinologi che tentano di comprendere costantemente il fenomeno Cina, tentano di comprenderne le evoluzioni sociologiche, storiche, politiche, è: esiste in Cina una società civile? perché l'idea, la percezione che abbiamo è che soprattutto i giovani cinesi non abbiano una piena consapevolezza storica, ma non tanto una consapevolezza della storia di altri paesi, quindi dell'Europa e degli Stati Uniti, su cui hanno invece delle informazioni che a volte sono sorprendenti. Però sono un livello di cultura comunque molto nozionistico, che quindi prescinde dalla curiosità verso analisi approfondite e più complesse. Quello che noto è che si ha una scarsa consapevolezza della propria storia, in particolare degli anni cosiddetti bui, insomma la rivoluzione culturale, sì, se ne parla in alcuni ambiti, non è vero che non se ne parla, però secondo me nei libri di storia viene accennata appena, anche se si va appunto su Google, tantissime informazioni relative al periodo della rivoluzione culturale, della repressione del movimento studentesco Tiananmen, non sono facilmente reperibili. E la mia riflessione è questa: questa assenza o pseudo assenza di consapevolezza storica la vediamo oggi manifestarsi in quelli che vengono chiamati Fen Yun Chi Nien, che sono un movimento, un fenomeno di giovani cinesi che si ribellano, ma si ribellano non al regime comunista, ma si ribellano ai modelli occidentali. Quindi c'è un ritorno molto forte del patriottismo che in qualche modo è guidato dall'alto, perché appunto dal termine socialismo di mercato a poi il Partito Comunista è sempre stato molto abile nel trasferire in modo, ecco, una sorta di trasformismo ideologico, per cui per legittimare il Partito Comunista cinese si sostituiva quindi al maoismo, al denghismo, insomma alla fine oggi quello che tiene il collante del partito dal punto di vista, quindi per ottenere il consenso, è appunto il patriottismo, il nazionalismo. I cinesi sono fortemente, e l'abbiamo visto quest'anno, l'abbiamo visto l'anno scorso con le Olimpiadi, l'abbiamo visto quest'anno con le celebrazioni del 60° anniversario. E questo, infatti, volevo anche poi fare una domanda conclusiva all'autore del libro, che c'è una frase sul finire, io me la sono riportata qui. Passaggio forse logico dai giovani ribelli, concludo questo, poi faccio perché se non si capisce il passaggio. Un libro che viene poi citato, e che io sto provando a leggere, ma in cinese è difficilissimo, è Zhongguo Guoqi, La Cina non è felice. Che appunto uno sente questo titolo e pensa: non è censurato in Cina un titolo che ha questo, un libro che ha questo titolo? No, perché appunto non è una critica costruttiva, ma è sono delle riflessioni che si rivolgono in opposizione, ecco, a quelli che sono i modelli occidentali. E quindi, ritornando per concludere al fondo sovrano, il fondo sovrano è anche, da cui mi consiglia, il braccio finanziario della politica cinese, ma anche l'architrave, ecco, di un ritorno della sovranità. E c'è appunto questa frase su cui vi invito a riflettere e su cui vorrei un'opinione. È opportuno chiedersi se l'azione dei nuovi fondi sovrani potrà condurre il processo di globalizzazione a una nuova fase, o se vi sarà un ritorno alla nazionalizzazione di beni e processi produttivi e a un marcato protezionismo. Quindi da un lato si assiste a livello culturale a un fortissimo patriottismo, dall'altro chi dal punto di vista economico, finanziario, si assiste come difesa alla Cina a un ritorno del protezionismo da parte appunto dell'Occidente, quindi si è un po' capovolto. Prima i protezionisti erano i cinesi, poi sono entrati nel WTO e poi i protezionisti siamo diventati noi. Ecco, quindi è una riflessione duplice di natura culturale interna, ma anche di come, qual è la proiezione, ecco, del Partito Comunista della Cina rispetto appunto al fenomeno della globalizzazione. Certo, adesso non entro in ambito di anti-dumping, che è un altro discorso. Una delle paure, e quindi parlo in chiave di financial behavior, cioè di analisi finanziaria legata al comportamento delle persone, una delle paure è quella dell'arrivo dei fondi sovrani, ma è una paura del tutto irrazionale. Una delle più risposte immediate irrazionale è alzare i dazi, alzare le tasse doganali, mettere delle barriere in modo da bloccare merci e capitali stranieri. Ed è tutto quello che in ambito di Banca Mondiale, IMF, è stato cercato di fare nei confronti della Cina negli ultimi 15 anni. Quindi in un solo anno di tempo si è ribaltato l'assetto. Non è più la Cina che cerca di difendersi con dei dazi o con delle barriere doganali, siamo noi che abbiamo questa possibilità, abbiamo questa paura che ci porterà a farlo. È il caso invece di vedere in cosa può essere funzionale, conoscere meglio un fondo sovrano, conoscere meglio gli obiettivi della Cina, perché tornando al discorso prima si era citato guerra, questa parola grossissima, non è un'opzione che la Cina si può permettere adesso. È un'opzione che forse qualche altro paese può permettersi, ma in termini di soft power la Cina ha capacità ben superiori rispetto al semplice ricorso militare nella ricerca di un consenso internazionale. Beh, qua la domanda è legata a una domanda prettamente di soft power. Il soft power di per sé è un'influenza, un'ingerenza, un'opportunità o quant'altro? Una volta che sono 1,35 miliardi di dollari in una singola azienda, è significativo. Esattamente, quindi prendiamo questa azienda che compra tutte queste altre aziende, riesce poi a gestirla in termini di risorse umane? Adesso per un esempio, Benelli, motocicli, tutti la conosciamo, è un'azienda cinese, non è più un'azienda italiana, headquarter a Shanghai. Benelli era fallita, stava chiudendo, è stata comprata dai cinesi che hanno riassunto tutti i dipendenti italiani perché hanno bisogno di quella creatività, hanno bisogno di quel know-how, di quella ricerca e sviluppo che Benelli ha maturato nel corso della storia e lo stanno gestendo ed espandendo. Questa è una delle scommesse sul futuro, ma oltre al discorso motocicli e via dicendo, indubbiamente è possibile entrare nel capitale sociale, ma poi gestirlo un altro paio di maniche. Torniamo indietro con l'esempio giapponese. Tenendo conto che non è un investimento finanziario, sì, ma forse è più riferibile alla richiesta interna di quel tipo di prodotto. Sì, no, citavo il caso Benelli solo per dire quando un'azienda scompare invece viene riassorbita dal contesto cinese, quella è un'opportunità. In relazione a quello che diceva prima, quando c'è stato un cambio di tendenza per cui l'investimento finanziario da 80 è diventato 20%. Sì. Certo, esattamente quello. Se non ci sono altre domande io andrei a chiudere anche perché insomma abbiamo parlato le 2 ore di incontro. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti che sono stati davvero gentilissimi e disponibilissimi. Grazie per ringraziare l'editore Obarro che ci ha permesso di fare questo incontro. Ringrazio ovviamente voi tutti per l'attenzione e vi rimando al nostro sito per ogni informazione per l'audio dell'incontro. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie.